9 in punto, la versione di Oscar. Oh, come tutte le mattine, anche a seguito del vostro referendum, con migliaia, 3 su 4 delle moltissime migliaia che ci hanno confermato, abbiamo deciso di continuare con i Doors. E questo The End, come vedete, non è un esercizio di pessimismo, perché se ieri siamo tornati a 340 di spread, ci sono dei motivi strutturali che hanno a che vedere con l'Italia, ma con l'euro, soprattutto con la situazione del rientro molto difficoltoso per i paesi euro deboli verso un deficit pubblico compatibile col fiscal compact, mentre la recessione è più dura del previsto e colpisce soprattutto quei paesi che, per aver fatto azzardo morale per anni con i dividendi dell'euro guidati da cattivi politici e con problemi di ordine diverso, chi perché non abbassavano la spesa pubblica e continuavano in deficit con la spesa corrente, chi perché avevano la bolla immobiliare, chi per una ragione e chi per l'altra, si trovano adesso a dover remare come pazzi mentre la recessione colpisce il reddito disponibile delle famiglie e delle imprese, e le pretese fiscali dello Stato, che deve diminuire il deficit, non fa che aggravare la situazione. Come vedete, la situazione è questa, non ce la inventavamo, lo dico per coloro che giustamente riprendono con le tante sms la situazione e dicono: ma perché continuate con questo pessimismo? Siamo ripassati in pochissimi giorni da 285 a 340 di spread. Sì, ci sono le difficoltà della riforma del mercato del lavoro, c'è Mario Monti che oggi sul Corriere della Sera deve dire che il montismo non esiste, fare una lunghissima lettera in cui dice: no, viva i partiti, viva la maturità degli italiani. Forse allora non era il caso di dire che lui era popolare mentre i partiti no, così si sveglia solo un cattivo cane che dorme, per così dire. Ma c'è un problema europeo irrisolto, e consentitemi di dire che basta vedere le cronache, che la stampa italiana come sempre trascura un po' troppo, per capire che di segnali perché l'euro, gli euro spread salgano, ce ne sono tanti. Per dire, oggi c'è l'Ecofin di Copenaghen e il dissenso interno su come fare la somma di ESM e FSF, i due strumenti straordinari, è molto forte, perché a seconda di come si fa la somma delle garanzie si può avere solo 500 miliardi di euro. Voi dite: beh, mica pochi. Beh, in realtà non tanti, se pensate a quanti ne abbiamo già utilizzati per Portogallo, Irlanda e per Grecia. E invece che 500, se si fa la somma in un altro modo, si può arrivare a 1000. La Francia, per esempio, con François Borin, in un'intervista ieri a Le Monde, è per la tesi 1000. Noi non si capisce come Italia, i tedeschi sono per la tesi 500. Se leggete il Financial Times di oggi avrete una storia molto approfondita di come i leaders dei paesi, i BRIC, e dei paesi emergenti, che abbiamo indotto a diminuire molto la loro velocità di crescita per la nostra crisi dell'euroarea, sono molto arrabbiati e dicono che loro non aumentano le quote previste per il Fondo Monetario per aiutare l'Europa, a meno che non si alzino ulteriormente i loro poteri di voto al Fondo Monetario. Hanno torto? No, secondo me hanno ragione. Non è che si può battere cassa da loro mentre li facciamo crescere meno e con la finta riforma del riequilibrio dei poteri di voto decisa solo nel 2009, secondo me troppo timida rispetto a come è cambiato il mondo. Andiamo in Olanda. L'Olanda è un paese euroforte, alleato dei tedeschi, che in questi giorni però vede il governo andare sotto alla Camera Bassa. Non c'è più la maggioranza, non c'è più la maggioranza perché il partito nazionalista, il Freedom Party di Geert Wilders, quello razzista e sciovinista, dice no di fronte al fatto che l'Olanda scopre di dover tagliare di 1.8 punti di PIL il deficit di quest'anno. E come dice: abbiamo imposto il rigore a tutti gli altri paesi eurodeboli e scopriamo che adesso noi facevamo esattamente come loro. Oppure, se leggete il Börsen-Zeitung, che è una delle testate finanziarie specializzate della Germania, trovate Otmar Issing, l'ex custode dell'euroortodossia alla Banca Centrale Europea, che con punti di fondatezza, secondo me, dice che gli eurobond, quelli che tanto piacciono alla politica italiana, a destra e a sinistra, con il governo Monti sono un po' spariti dalla richiesta italiana in Europa, tranne un paio di accenni. Gli eurobond, secondo Otmar Issing, sono la più grande minaccia alla stabilità europea. Oppure, sempre Barouin, il francese dice che bisogna posporre dopo le elezioni presidenziali francesi la scelta del leader dell'Eurogruppo. E poi, ancora, ieri la conferma che la Bundesbank è la prima banca centrale europea a non accettare obbligazioni bancarie con piena garanzia statale. Le garanzie statali sulle obbligazioni bancarie si sono estese in questi mesi, che provengano da Grecia, Irlanda e Portogallo. E oggi infine apprenderemo che la Francia nel 2011 ha avuto un deficit che dovrebbe essere, secondo il governo francese, invece migliore del previsto. Nel deficit francese dovrebbe essere al 5,2% invece che al 5,7%. Attenti, perché qualcuno invece sostiene che si tratta di un trucco prima delle presidenziali francesi. Allora, questo è il motivo per gli spread. Ieri si è dato fuoco un altro in Italia, un giovane marocchino, perché non pagato da 4 mesi, il giorno prima un giovane imprenditore. Per i temi che tocchiamo abitualmente, molti ci chiedono di continuare ad andare avanti nella nostra campagna per gli dire no in qualche misura agli eccessi di una pretesa fiscale mentre condotta con strumenti troppo induttivi e troppo prescrittivi, mentre la gente oramai ha meno da pagare per rimanere in regola con i suoi obblighi fiscali. E devo dirvi la verità, io sono convinto che sarebbe il caso di pensare a un'iniziativa straordinaria, non tanto con soldi pubblici, ma sarebbe bello immaginare un mondo in cui tutte le associazioni di impresa, quindi Confindustria, Rete Impresa Italia, l'ABI per le banche, l'ANIA per le assicurazioni, capissero che in un paese in cui la recessione morde così tanto, lo Stato non paga, giustamente bisogna far fronte all'obbligo fiscale con precisione millimetrica, allora ci vorrebbe forse anche un servizio d'emergenza, pochissimi soldi messi insieme da tutti per aprire un unico comune di emergenza a cui imprenditori che sentono di non farcela più, lavoratori disperati perché non vengono pagati, potessero rivolgersi e avere una specie di parola e qualche possibilità di indirizzo a qualche strumento alternativo a quello di darsi fuoco. Un paese in cui la gente inizia a darsi fuoco, un paese in cui le classi dirigenti, politiche, ma anche imprenditoriali, finanziarie, cioè, dovrebbero mettersi la mano sulla coscienza. E, infine, ieri i dati sulla riscossione da evasione, che nel 2011 ha fatto molto meglio che nel 2010, lode e giusto merito alla squadra che guida l'Agenzia delle Entrate di Equitalia. Ho sempre distinto le responsabilità loro, cioè di Attilio Beffera e dei suoi collaboratori, da quelli che invece di chi guida la politica del nostro paese in questo campo. Siano passati da 11 a 12.7 miliardi in un anno, erano solo 5 miliardi 5 anni prima. Ieri col professor Raffaello Lupi però si è fatta un'analisi di da dove provengono questo 1.7 miliardi più in un anno. Attenti, perché 1.1 miliardi sono semplicemente liquidazioni da imposte e da imponibili regolarmente dichiarate, cioè di cui 1.7 miliardi, 1.1 è un imponibile già noto allo Stato e si tratta semplicemente quindi di contestazioni su oneri deducibili o su compensazioni posposte di un anno. Se andiamo a vedere quanto è l'aumento di riscosso dagli autonomi, cioè da noi additati come abituali evasori, dico noi perché sono anch'io partita IVA, ho due piccole società, se andiamo a vedere quanto riscosso in più c'è dal 2011, dal 2010, da commercianti, artigiani, coloro che vengono additati come gli evasori per definizione, ci sono solo 30 milioni in più, da 329 a 361 milioni rispetto a 1.8 miliardi in più, e solo 10 milioni da media impresa e 250 complessivamente da grande impresa. Forse c'è di che riflettere quindi sul beneficio che viene da campagne tanto aggressive da una parte rispetto al fatto che ci vorrebbero incentivi. Credo, e concludo prima di arrivare al tema della giornata, che un dato come questo, nella sua significativa importanza, ci deve rendere grati verso chi conduce la battaglia, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, dall'altra parte però indurre a riflettere. Molto di più si farebbe se gli incentivi premiassero chi le tasse le paga, molto verrebbe in più se i governi di destra, di sinistra e anche i tecnici un mese fa non si rimangiassero ogni volta l'impegno di retrocedere a chi le tasse le paga, almeno buona parte di quello che viene dall'aumento del riscosso da chi non le paga. In caso contrario, l'aumento di pressione con imposte dirette con le addizionali locali, con le indirette di cui è già disposto l'aumento e con le patrimoniali introdotte, non faranno che rendere più difficile per l'Italia legale che paga le tasse reggere di fronte all'Italia illegale e a quella criminale, l'esatto opposto di quello che tutti a parole dicono. E questo ultimo tema mi porta al tema invece del giorno, perché noi oggi parliamo di un libro che mi ha molto colpito. Io devo dichiarare, non sono uno sfrenato entusiasta pregiudizialmente dei libri che rimettono insieme atti giudiziari, ma questo libro non è una cosa di questo genere. Questo libro rimette insieme in un percorso unico di lettura vicende che in questi anni ci hanno molto colpito sui giornali, di cui si è molto discusso, nel talk show, nella politica, eccetera, e poi come sempre si rischia che invece sfilino via dalla nostra pelle, dal nostro vissuto quotidiano. I due autori sono Ferruccio Sansa, che è un inviato del Fatto Quotidiano, e Claudio Gatti, che è un inviato speciale del Sole 24 Ore. Sono due grandi campioni, come devo dire, del giornalismo che tira fuori notizie tra politica, giustizia, politica e affari, giustizia e affari, per le tante indagini. Hanno dato dei colpi notevolissimi, da Gatti, che ai tempi di Oil for Food. È troppo lungo l'elenco di ciò che hanno fatto negli anni. Bisogna esserne grati, perché è una grande scuola di giornalismo che sfida anche i direttori. A me piace rendere atto di questo coraggio quando è fatto di notizie, non solo di opinioni. E hanno scritto un libro che esce per Chiare Lettere e che si intitola Il Sottobosco. Tanto per farvi capire di che cosa parla questo libro, vi do l'indice del che attraverso i titoli ricostruisce le vicende di cui si occupano. Allora, il libro comincia con l'affare del petrolio venezuelano, le trattative di un emissario dell'Andrangheta in Sud America per l'acquisto di una fornitura di greggio che interessa al senatore Marcello Dell'Utri e Roberto De Santis, il fratello minore di D'Alema. Capitolo numero 2, amici negli affari, nemici in politica. Energie alternative, gas, petrolio, telecomunicazioni, gli interessi economici che accomunano gli esponenti del sottobosco politico post-comunista e i loro avversari. Terzo capitolo, gli anni dell'ulivo da bere, la calata dei dalemiani a Roma dopo la vittoria elettorale del centrosinistra nel 1996, il grande salto dalla scena locale alla dimensione nazionale. Capitolo successivo, il filo rosso tra Liguria e Puglia, gli amici di Claudio Burlando e la lobby di Ital Brokers alla conquista delle società pubbliche. Capitolo successivo, la galassia della Fondazione Italiani Europei, chi sono, di cosa si occupano i finanziatori della Fondazione di D'Alema. Capitolo successivo, gli amici centristi e berlusconiani, i rapporti con Lorenzo Cesa, Fabrizio Palenzona, Denis Verdina e Altero Matteoli, una rete trasversale agli schieramenti politici. Ancora, capitolo successivo, il compromesso storico in nome degli affari, il sottobosco nelle rivelazioni di Tarantini, sì, Giampi Tarantini, quello dell'escort al Premier, i risvolti bipartisan dello scandalo escort. Finale, epilogo, il sottobosco, la grande anomalia dell'Italia, nella quale i due autori dicono: finché noi non capiremo quanto stretta e profonda è la trama tra affari e politica, e quanto sia trasversale, e quanto le lobby in nome della debolezza per soldi, orologi, viaggi all'estero, mignotte, riescano a costituire una specie di tela profonda, molto più fitta nell'ordito di ciò che ci viene proposto dal finti scontri della politica della Seconda Repubblica, finché non avremo capito questo, noi non riusciremo davvero a metterci alle spalle questi 17 anni. Hanno torto? No, secondo me hanno profondamente ragione. Questa è la mia presentazione, io li ringrazio e li saluto dando a loro la parola. Sono con noi Ferruccio Sansa e Claudio Gatti, gli autori del Sottobosco. Buongiorno e grazie a voi due. Buongiorno a voi. Buongiorno. E se però non vi presentate almeno per la prima volta dicendo sono Ferruccio, non si distinguono le voci, per così dire. Comunque, mi rivolgo in primis a Claudio Gatti, ma l'idea di chi è stata? Beh, ci siamo trovati entrambi negli anni a occuparci di simili problemi, quindi quando io ho chiamato Ferruccio per chiedergli se era interessato a collaborare a un libro, la risposta è stata un immediato sì. E quindi, insomma, in realtà vi siete trovati abbastanza naturalmente. Ferruccio, queste storie di cui avete parlato, nella tua esperienza, sono storie la cui pubblicazione che inevitabilmente attira delle reazioni molto dure, molto toste o di inveterati, sia da parte degli interessi economici che da parte politici. Questo tipo di mestiere, fatto come lo fai tu, che problemi ti ha creato nella carriera? Ma io adesso devo dire che non voglio prendermi dei meriti, ma no, perché io adesso ho la fortuna di lavorare in un giornale dove non ci sono censure. Prima, diciamo prima, sì. Adesso al di là dell'elogio naturalmente al Fatto Quotidiano, che fa di questo tipo di giornalismo una delle sue scelte di fondo. Sì, no, io devo dire ho perso anche delle occasioni di lavoro per questo, ho avuto delle difficoltà molto grosse, anche umane, anche nella mia città che è Genova, che è governata dal centro-sinistra da sempre, direi da 60 anni, da quando c'è la Repubblica Italiana, perché mi è capitato anche di scriverlo l'anno scorso, ci sono due tipi, diciamo, di reazioni a articoli di questo genere. Quella, diciamo, dell'epoca berlusconiana, che era una reazione molto dura da parte del centrodestra, che è una reazione di tipo di un potere che è abituato a considerare la stampa e i giornali con una logica quasi proprietaria, e invece quella del centro-sinistra, che forse è quasi più insidiosa, perché considera di essere dalla parte del giusto, cioè considera che i giornalisti che tentano di mettere in discussione il potere di centro-sinistra lo fanno in malafede, lo fanno per un'ottica persecutoria. Ecco, io credo che in questo poi alla fine il centro-sinistra e il centro-destra, nella mancanza di rispetto che hanno del libero giornalismo, delle inchieste, si somiglino molto. Eh beh, devo ammettere, questo passaggio sul centro-sinistra che nei confronti dei giornalisti che considera, a torto, a ragione, ma non è questo il punto, più o meno vicini, quando impugnano il rasoio del professionale, quando li considerano di coloro che vengono meno a un impegno, per così dire, che dovrebbe venire prima rispetto al rasoio professionale, cioè quello di stare dalla parte giusta, come ci diceva adesso Ferruccio Sansa, è uno, secondo me, dei problemi di fondo che spiega la difficoltà anche di metterci alle spalle questi anni. Allora, ricominciamo dal percorso di questo libro. Il percorso di questo libro è quello che dell'esistenza della documentazione, non del pregiudizio suppositivo, ma della documentazione ex post, che mette insieme vicende in cui si capisce che al di là dello scontro politico a coltello dell'Italia bipolare, c'era una fitta trama di interessi congiunti più o meno vastamente e gravemente illeciti. Quanto questo giudizio, secondo Claudio Gatti, conterà davvero nel bilancio da trarre di questi anni, e quanto invece siete pronti a dovervi difendere dall'accusa di essere, per così dire, dei nemici del patto della crostata, che siete al servizio di pezzi della sinistra che hanno sempre detto che sono i dalemiani cattivi, da sempre collusi con i berlusconiani, naturalmente cattivi per definizione, Claudio? Beh, innanzitutto il problema di fondo che noi riteniamo debba essere visto, affrontato, è quello che da due decenni ci sono due personaggi, Berlusconi e Dalemi, che dominano i due poli e che nei fatti non sembrano essere così differenti, e quindi quando si va a scoprire questo straordinario, per noi, intreccio affaristico e che poi ha una sorta di aspetto incestuoso, certamente sul fronte politico, si vede che questi due mondi in realtà coincidono anche culturalmente, perché se la sinistra più della destra ha questa pretesa di essere migliore, ma non soltanto nel senso di scelta politica, ma anche così da un punto di vista etico o culturale, però nei fatti quello che abbiamo scoperto è che in realtà sembra essere uguale. Quando voi dite del grande assalto dell'Ulivo, gli anni dell'Ulivo da bere, c'è questo capitolo che dice: la calata dei dalemiani a Roma dopo la vittoria elettorale del centro-sinistra nel 1996, il grande salto dalla scena locale alla dimensione nazionale. Questo capitolo, gli anni dell'Ulivo da bere, se non sbaglio, l'ha scritto Ferruccio Sansa, corretto? Abbiamo scritto un po' tutte e due, è stato veramente un lavoro molto molto diciamo a quattro mani. Ecco, no, quello che ci ha colpito moltissimo è che la classe dirigente del vecchio PC era una classe dirigente anche di prima qualità, anche culturalmente, politicamente. Però in Italia c'è questa grandissima anomalia che noi abbiamo chiamato il sottobosco, che è qualcosa che sta sotto la casta. Cioè, proprio veramente la casta sono i grandi alberi del sottobosco e la vegetazione che si nutre, diciamo, dell'umidità dei grandi alberi. Però è importante per la vita nostra di cittadini, almeno quanto il governo, perché le grandi decisioni sono prese a Palazzo Chigi, mentre poi quelle che incidono sulla nostra vita sono quelle che poi vengono prese a livelli più bassi, cioè che coinvolgono appunto il sottobosco. Ecco, negli anni, fine anni 90, quando il centro-sinistra arriva al potere, La classe dirigente, diciamo quella di governo, ce l'ha. Quello che non ha mai avuto, perché non ha mai governato, il sottobosco. E allora a Roma arrivano tutte queste figure di amici degli amici che si impadroniscono di tutte le poltrone, di appalti, di affari. Ecco, e tutta questa categoria di persone noi abbiamo riscontrato carta alla mano, ma non sono soltanto questioni giudiziarie, sono, come diceva Claudio, è una cosa molto più profonda, c'è una questione antropologica e culturale, una somiglianza fortissima tra il berlusconismo di destra e questo berlusconismo di sinistra. C'è una somiglianza che va dai comportamenti politici, ai comportamenti economici, ai comportamenti morali. C'è uno scandalo delle escort del centro-sinistra che assomiglia incredibilmente a quello del centro-destra cosiddetto di Berlusconi. Alla fine degli anni 90 anche tutto il sottobosco d'Alemiano fu scosso da uno scandalo delle escort, e noi abbiamo ritrovato alcune frasi di questi protagonisti che hanno un modo di trattare il genere femminile che è assolutamente in consonanza con quello di Berlusconi, per cui è una somiglianza tra berlusconiani e questi berlusconiani di sinistra che è molto più, va molto oltre, diciamo, il fatto di fare affari insieme, ma non sono soltanto persone simili, sono, diciamo, ormai una classe dirigente che ormai non si distingue più tra centro-sinistra e centro-destra. Allora, ora andiamo in pubblicità. Al ritorno devo fare una domanda a entrambi, ve la anticipo. Ho l'impressione che il sottobosco, che voi giustamente distinguete dalla casta, anch'io sono dell'idea che va bene i privilegi della casta, però c'è un problema dell'Italia di fondo, che mi sembra quello di essersi in sue vaste aree, senza voler generalizzare, attrezzata in tutti questi anni, tenuto conto dei comportamenti di fondo della politica e dei vertici amministrativi, senza generalizzare, ma di vasta parte della macchina pubblica, tanto vale auto-organizzarsi, consentire con loro, mettersi d'accordo con loro. Nella sanità ci sono vastissime aree in cui, e non si spiega se non così, l'aumento del 50% nei 5 anni pre-crisi delle forniture sanitarie, in cui di fronte alla parcializzazione della decisione del costo in tutte le aziende sanitarie ospedaliere di tutte le forniture, invece che una unificazione per macro aree, se non nazionale, decine di migliaia di piccole imprese, medie imprese, si organizzano e colludono per finti prezzi, finte tariffe, finte gare. Allora, questo sottobosco descrive poi la difficoltà, perché non è che c'è solo la casta e i vertici politici e amministrativi collusi. Ci sono poi probabilmente alcuni milioni di italiani che condividono e traggono vantaggio da un sistema di questo tipo. Quindi la domanda che vi faccio è: il sottobosco riguarda poi un pezzo di sinistra e un pezzo fondamentale, insomma, lo stile padronale del centro-destra di questi anni, o poi dietro nel sottobosco, il sottobosco è così ricco di humus fertile, perché poi ci sono milioni di italiani che in realtà sono perfettamente d'accordo e traggono un vantaggio assoluto da questo tipo di mondo relazionale, piuttosto che un mondo di concorrenza che a volte è spietata. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del sottobosco. Editore Chiare Lettere, sono con noi i due autori, Ferruccio Sansa, che è inviato del Fatto Quotidiano, Claudio Gatti, che è inviato speciale del Sole 24 Ore, che ci offrono questa ricostruzione di patti collusivi, di convergenza di interessi tra affari, politica e, come possiamo dire, malagestio. La malagestio non è solo quella pubblica, è una distorta concezione di come valori di vita, valori del mondo economico e valori politici possano entrambi, in un intreccio reciproco, coinvolgersi in una spirale di reciproco peggioramento. E lo fanno puntando un dito. Ci sono pezzi di sinistra che in questo anno di bipolarismo muscolare e pezzi fondamentali del centrodestra in realtà si trovavano a braccetto sulle vicende più incredibili, con vasto illecito, da energie alternative al gas, al petrolio, alle telecomunicazioni, alle escort, e anche i centristi, ce n'è anche per i centristi. La mia domanda è: ma non c'è in fondo un'Italia con moltissime imprese e diversi milioni di dipendenti che si è attrezzata per andare d'accordo con loro? L'esempio di oggi, quello che trovate per esempio, che apre il dorso imprese territoriale del Sole 24 Ore, la mafia fuori dai subappalti, che vi informa di come grazie al nuovo atteggiamento di Confindustria nel sud, in Sicilia innanzitutto, la prefettura di Agrigento si è riuscita a escludere 84 imprese da 100 milioni di lavoro per i subappalti nel cantiere sulla strada statale dove è stato ucciso Livatino, il giudice giovane, ve l'ho ricordato. Ecco, per arrivare a una cosa di questo genere ci sono voluti veramente 15 anni per fare la svolta tra gli imprenditori di Confindustria e arrivare a cose di questo genere. La domanda che faccio a Gatti e quanto è immaginabile che i milioni di italiani che in realtà con questo sottobosco vengono a patti e ci campano bene davvero possano aprire gli occhi e dire vale la pena di fare la svolta? Beh, innanzitutto secondo me occorre dire che mentre la casta è fatta di una categoria alla quale gli italiani sono, soprattutto si sentono lontani, il sottobosco è molto più in basso, molto più a diretto contatto con il mondo reale. Cioè, è più difficile ritenere un fenomeno diverso, lontano dalla gente comune. Cioè, io ricordo un libro di un italianista inglese, Christopher Duggan, che si chiama come l'opera di Verdi, La forza del destino, e lui parla del nostro paese come sprovvisto di un senso dell'insieme, degli interessi comuni. E dice che in Italia gli interessi degli individui e dei partiti spesso non sono subordinati all'interesse generale e comune. Lui parla della nostra classe dirigente come decisamente poco autorevole, ma dice anche che la cultura dominante in Italia è quella che non crede nella prevalenza del bene comune, è un paese in cui domina l'interesse privato in atto pubblico. E in questi 150 anni di storia le risorse dello Stato sono state disperse, depredate, trasferite a lobby di ogni genere, che però sono anche state accettate grazie al sistema clientelare da molti. La domanda per Sansa è delle escort con cui abbiamo riempito giornali, telegiornali, giornali radio, nella fase in cui insomma è stato il grande segno che il talento di Berlusconi nel attirare consensi in campagna elettorale, al netto del fatto che poi le realizzazioni politiche o andavano in tutt'altra direzione o non mantenevano le promesse, questo è un fatto che è innegabile, e che da queste cornice, da questi microfoni mi è valso anche ancora adesso la gente che dice ah, traditore, come sempre, però quella vicenda è stata decisiva per compiere questa frattura negli occhi dell'immaginario pubblico, nei sondaggi, e quindi poi ecco, ha portato poi tempo dopo agli sviluppi che poi con gli spread hanno portato a Monti. Ma di quella vicenda che poi invece sembra sparita e che voi ritirate in gioco in questa chiave di lettura, che cosa resta secondo te davvero nella testa degli italiani? Quello che dite voi, o invece solo il difetto di Silvio Berlusconi, l'eterno schifoso che utilizza qualunque arma e che si sa che delle donne c'è una malattia non curata come ci aveva avvisato la moglie? Ma, incredibilmente lo scandalo escort è considerato tuttora uno scandalo di destra, cioè lo scandalo di Berlusconi che si faceva procacciare le ragazze per i suoi festini. È anche uno scandalo di Berlusconi, è molto uno scandalo di Berlusconi, ma è nello stesso tempo, anzi non colpisce solo nello stesso tempo, colpisce insieme anche il centro-sinistra, perché Tarantini, una cosa che è passata inosservata, che noi abbiamo cercato di ricostruire nei dettagli, procaccia secondo i PM le ragazze a Berlusconi per sponsorizzare gli affari degli amici imprenditori legati poi amici a loro volta di Massimo D'Alema. Cioè sono imprenditori che poi finanziano la fondazione di Massimo D'Alema e di italiani europei. Ecco, e non solo, addirittura arriva a un certo punto in cui Tarantini, appoggiandosi in accordo con Roberto De Santis, che definisce D'Alema il suo fratello maggiore, progetta di coinvolgere nei suoi affari Paolo Berlusconi, per cui qui c'è una totale intreccio di affari tra centrodestra e centrosinistra. Ecco, è una cosa che spero che emerga da questo libro, dal nostro libro, che al di là degli aspetti di profilo penale, il sottobosco produce dei danni molto profondi al nostro paese, che sono innanzitutto i danni all'economia, perché è un sistema di regolazione delle gare, degli appalti, delle nomine, che falsa le regole più elementari della concorrenza, impedisce di selezionare una nuova classe dirigente e uccide, io credo, la meritocrazia, per cui è un, diciamo, un male talmente radicato che poi rischia veramente di fare dei danni difficilissimi da estirpare. Quando parlate di un compromesso storico in nome degli affari, questo compromesso storico in realtà è stato celebrato, perché nei fatti gli affari avvenivano, ma in politica in realtà il contrario, perché il contrasto muscolare è, per definizione, nell'alternanza di governi che ognuno buttava a mare quel poco che aveva fatto e il molto non fatto del predecessore, è stata il vero copione, il canovaccio pubblico del bipolarismo di questi 17 anni alle nostre spalle. Quindi un compromesso storico che non ha funzionato in politica, come non ha funzionato quello, anche se resta poi la sigla di un'epoca, oppure c'era un'intelligenza nel picchiarsi in pubblico e nell'intendersi in privato, secondo voi? Chi risponde a questo? Posso rispondere io? In realtà, diciamo, ci sono stati degli scontri molto forti sulla scena pubblica, ma ricordiamoci per esempio che la bicamerale in cui figure di primo piano sono stati nel concertarla D'Alema proprio e Berlusconi, era nata proprio, diciamo, da questo accordo di sottofondo, noi abbiamo raccolto anche decine di dichiarazioni per cui sui giornali, sulla scena pubblica, sotto i riflettori ci si scambiava, come si dice, delle sportellate, e poi in realtà sia nelle strategie politiche, ma ancora di più nelle strategie di affari, poi c'era una fortissima consonanza. Il problema è che poi, diciamo, si è lavorato in modo da gettare un po' del fumo degli occhi dei cittadini, in modo che i cittadini percepissero uno scontro tra centrodestra e centrosinistra, mentre in realtà gli ambienti più forti del centrodestra e centrosinistra lavoravano di concerto per cercare poi di mantenere, diciamo, di garantirsi una sopravvivenza sia politica che economica affaristica. Antonio, dalla provincia di Cuneo, rapido, che pensi? Salve. Sì, ma naturalmente è perché la caduta dei valori delle persone, secondo me, perché anche se sono giovane, quindi non ho l'esperienza, non so bene, però vedendo praticamente la nostra società, è una cosa banale quella che dico, però la nostra società, cadendo di valori, le persone avendo meno rispetto a una volta, meno un ideale, non solo il dio denaro, questo porta sia da destra che da sinistra le persone, è uno spaccato della nostra società. Quindi tu dici che in realtà, appunto, più che una degenerazione, è la trasposizione applicata ai capi della politica e al loro clan di affari di qualcosa che però attraversa approfonditamente la società italiana. Ma non lo so, Antonio, ho molti dubbi. Io ho dubbi profondi sulle letture che generalizzano letture etiche. Questo, di fondo, io appartengo a una cultura, mi sono formato una cultura repubblicana, laicizzazionista, quindi anch'io la vedevo così. Mi innamorava quando ero giovane l'altra Italia, di Ugo La Malfa. Pensavamo anche noi di essere depositari di valori di virtù superiori. Poi, diciamo che mi sono autoimmunizzato di fronte a chi pensa di essere lui il depositario di valori di virtù superiori e dice agli altri: voi siete contagiati, siete anomici, siete incivili, non sapete cooperare, non avete la compliance nel sangue, siete dei lazzaroni sanfedisti. Insomma, che è un po', secondo me, il difetto di fondo degli approcci eticisti, che porta la sinistra a pensare sempre di essere superiore, perché lei sì che ha i valori, ti credo, certo, il Zeitgeist, lo spirito della storia, mentre voi siete al servizio del capitale, degli interessi, del profitto che corrompe l'uomo in marcia verso il sol dell'avvenire. Queste robe qua a me con l'età non mi appassionano più. Credo invece che ci siano gli effetti di incentivi e disincentivi che spingono gli individui, le persone, le famiglie, le reti relazionali che sono così forti nel tessuto sociale del nostro paese ad accumulare nel tempo una specie di calcolo del vantaggio. Alla fine io ottengo di più se mi sbatto la testa contro il muro, lavoro di giorno e studio la notte, tutto sul merito, o alla fine ottengo di più e prima se c'ho un amico di un amico di un assessore potente, oppure la mia impresa c'ha qualche contratto in più, se ha la ASL, l'azienda ospedaliera, ci mettiamo d'accordo, oppure se procaccio una donna e orologi Rolex veri o finti per qualcuno. Ecco, nel vantaggio comparato alla fine, non tanto in quello che uno eticamente convinto sia bene, questo paese ha dei grandi svantaggi comparati che vivono in ciò che la parte pubblica dà agli italiani, li induce a credere che rapido, presto e meglio avviene con amici degli amici, o da sfamare o da con cui condividere. Questo è il punto di fondo, secondo me. Posso sbagliare, per questo io con libri come questo di cui stiamo parlando oggi li prendo come occasione per mettere alla prova o meno quello che io vedo da tanti decenni, e li vedo nel mondo dell'impresa, come nel mondo dei pubblici amministratori, come nel mondo della politica. Non credo che siano gli, tra virgolette, italiani il punto. Appunto, il familismo morale è una lettura degli anni 50 dell'Italia. L'Italia è cambiata, non sempre solo in peggio, almeno secondo me. E mentre tornano i Doors, il pacco che noi abbiamo da parte degli ascoltatori di segnalazione intorno ai temi di cui abbiamo parlato in questi giorni, cioè le procedure con cui il fisco procede nei loro confronti, è sempre più ampio. Ne cito solo due a caso. Oggi cito la lettera di Davide, che ci parla, è un commercialista di Milano, e che ci denuncia alcuni comportamenti scorretti dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione Tributaria Provinciale. Di che si tratta? È un accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una SRL che svolge attività immobiliare, cioè cosa fa? Acquista, valorizza, ristruttura, vende immobili propri, non un'agenzia immobiliare che fa attività edile. Allora, questo accertamento è stato eseguito unicamente in base agli studi di settore. In contraddittorio poi è documentato che non erano stati venduti immobili, quindi, perché gli immobili hanno atti di vendita che sono pubblici, sono nei pubblici registri, non è che si può vendere immobili in nero. E nonostante quindi sia stato documentato che le vendite non erano avvenute in quegli anni, come dice l'Agenzia delle Entrate, a questo punto l'accertamento è andato comunque avanti. Allora il commercialista fa ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ma i giudici non accolgono, condannando il contribuente a pagare tasse, sanzioni e interessi su ricavi presunti che però non erano mai stati incassati e non era avvenuta nessuna vendita. A questo punto c'è l'appello alla Commissione Tributaria Regionale. Ed è una situazione paradossale, ci scrive il commercialista, perché la caratteristica di questa attività immobiliare della SRL, regolarmente documentata, è quella di acquistare terreni immobili, ottenere le autorizzazioni per ristrutturare e poi vendere, ma tutto questo viene documentato e dall'acquisto alla vendita devono passare necessariamente anni, 3 anni in questo caso, nei quali non ci sono ricavi. È dichiarato, è dimostrato che i soci della società, che è una società a conduzione familiare, svolgono altre attività, non ci sono dipendenti. Dice: come facciamo noi, visto che siamo pure condannati a pagare un imponibile che non abbiamo realizzato, perché non abbiamo venduto assolutamente niente mentre spendavamo per valorizzare nel frattempo? Ecco, per dirne una, ma ce n'ho di infinite, a dire la verità, di vicende di questo tipo. Ce n'è una che vale la pena, non che vi dica in pochi secondi oggi, ma che vi racconti meglio lunedì, perché è una vicenda di cui si occupa un padre per conto del figlio. Il figlio ha delle stock option e l'Agenzia delle Entrate, con tanto di ricorsi, conferme nei ricorsi e così via, non solo arriva a pignorare, ma ci sono sanzioni su un reddito che non è mai stato realizzato. Ecco, vabbè, noi continueremo a documentare vicende di questo tipo. Ripeto, non è una campagna unilaterale contro lo Stato e l'Agenzia delle Entrate, è solo l'invito a una procedura nella quale ci sia la parità dei diritti. Nel processo tributario, nel contenzioso tributario, a differenza che in quello penale, secondo me, di cui ci occupiamo sempre, non c'è, il giudice non è parte terza e bisogna versare un terzo per il solo fatto di sfidare lo Stato. Domanda finale. 30 secondi a testa a Ferruccio e a Claudio, a Ferruccio Sansa e Claudio Gatti. Cominciamo da Sansa. La politica dei tecnici non doveva servire a superare anche questo? Secondo me di questi temi invece non si parla più. Tu che dici, Ferruccio? Ma io dico, vi faccio un esempio concretissimo. Oggi noi sul Fatto Quotidiano parliamo di Marino Massimo De Caro, persona vicina dell'Utri e ad Alema, di cui parla molto anche il nostro libro. E anni fa questa persona fa affari con i dalemiani e con dell'Utri e per il petrolio venezuelano. Questa persona era stata indagata anni fa per ricettazione, poi è stata archiviata per ricettazione legata a un libro antico. Adesso quest'uomo E dopo questo episodio è stato scelto dal ministro Galan e quindi adesso dal ministro Ornaghi come consulente per l'editoria del governo. Ecco, questo dimostra che il sottobosco non cambia. Non cambia. Claudio Gatti, l'obiezione è che la storia rivista sempre con l'etica giudiziaria trascura la grande politica alta e nobile. A questa obiezione come si risponde con libri come questo? La nostra non è storia giudiziaria, è anche storia politica e riteniamo che senza avere grandi pretese sociologiche noi mettiamo in evidenza un modello di gestione del potere che nell'Italia di oggi è diffuso tanto a destra quanto a sinistra. E la crisi e l'immobilismo della politica adesso secondo noi è anche dovuto al fatto che c'è questa comunanza di modi di fare che rende... È difficile trovare un'alternativa. È superarlo, difficile trovare un'alternativa. Io ringrazio Ferruccio Sans e Claudio Gatti. Il Sottobosco, chiare lettere. Con noi appuntamento a lunedì.